Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Nei momenti più difficili la voglio lì, al mio fianco, e la vado a cercare. E lei si fa trovare sempre, esattamente lì dove l'avevo lasciata. Dedicato alla mia compagna di vita, che di nome si chiama Ansia e di cognome Panico. Mi chiamo Massimo Bisi, sono un imprenditore e vivo a Carpi. Il problema è che abbiamo paura. Basta guardarci. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba, di rimanere invalidi, paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio su cui avevamo scritto una cosa importantissima. Paura dei terremoti, paura dei virus, paura di sbagliare, paura di dormire, paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. C'è un signore che si chiama Alessandro Genovesi, che è passato da queste parti qualche tempo fa, ha lavorato con questa squadra di lavoro prima di questa radio e poi in questa radio, poi è stato sostanzialmente al cinema. Questo pezzo che avete sentito è un pezzo dedicato alle paure, l'abbiamo già mandato in onda, credo, o forse semplicemente ho letto il testo, ma non questo pezzo qua, che Alessandro ha infilato in quello che prima era un suo spettacolo teatrale e poi è diventato un film con la regia di Gabriele Salvatores, che si chiama Happy Family. Questo pezzo è in realtà tratto da un monologo scritto da un autore inglese che si chiama Steven Berkoff, che credo sia inglese, sono quasi sicuro che sia inglese, sono praticamente sicurissimo che sia inglese, è inglese, che si chiama Steven Berkoff, che è dedicato alle paure, perché la puntata di oggi, anche se vi chiedo però di ascoltarla scevri da qualsiasi paura, parla di quello. Lo fa in una maniera particolare, perché la storia di Massimo parte da un punto e arriva da un'altra parte, ma è una storia di slevamento, di confessione e soprattutto di svelamento. Io e lei ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, avevo, se ricordo bene, quasi 20 anni. Una mattina l'ho trovata lì davanti a me, prima di entrare in caserma, nel periodo in cui facevo il militare. Non è stato subito amore. All'inizio non ne volevo proprio sapere di quel senso di vertigine, quei sintomi soffocanti, quello stato di agitazione strano che mi prendeva all'improvviso quando la incontravo. Poi, piano piano, abbiamo fatto amicizia e nonostante periodi di alti e bassi come in tutte le storie d'amore, è ancora qui con me, al mio fianco. Ormai festeggiamo le nozze d'argento. L'ho incontrata senza riconoscerla, con una sensazione di brivido, di senso di soffocamento, come quando si vede una bellissima ragazza e si rimane senza parole, senza fiato. Certo, non posso negare di averla tradita in questi anni. Per diversi periodi ho preso cose per cercare di dimenticarla e frequentato persone per cercare di non vederla mai più. D'altronde, anche lei se l'ha meritato. Molte volte è insopportabile, così insistente, prepotente, maleducata, stupida, così tanto che la vorrei vedere scomparire. Poi però inconsciamente, nei momenti più difficili, la voglio lì al mio fianco, la vado a cercare e lei si fa trovare, sempre, esattamente lì dove l'avevo lasciata, sempre uguale alla prima volta, come se per lei il tempo non passasse mai. Dedicato alla mia compagna di vita, che di nome si chiama Ansia e di cognome Panico. Lo stato d'ansia non sai da dove viene e ti toglie il fiato, ti toglie la parola, ma soprattutto ti trasforma quello che vedi. Hai una sensazione non reale di quello che ti sta succedendo. Ti sembra di morire, ma non è vero, insomma, anche se sei da barbiere. Prima di conoscerla era un ragazzo sfrontato, con una parlantina fluente, molto curioso. Non avevo paura di niente. Facevo sport, vita sociale. Ho anche avuto l'incoscienza di avviare un'azienda a 22 anni e ci sono poi riuscito. Adesso che di anni ne ho 46, ho sempre la stessa azienda. Sono passati 24 anni. Ho 15 dipendenti più altrettanti nell'indotto. E l'aziendina funziona bene, anche in questo periodo di crisi. Economicamente sto bene. Non ho figli. Sono accompagnato e poi sposato da 20 anni con la stessa donna, che è diventata piano piano tutta la mia vita. Però vi devo dire che la cosa che veramente mi ha cambiato è stato l'incontro con gli stati d'ansia e gli attacchi di panico. Ecco, questo è l'elenco delle cose che non riesco più a fare da 15 anni, nonostante 10 anni di psicoanalisi e 6 pastiglie di benzodiazepina al giorno. Eccolo qua. Andare a cena con gli amici e fare vita sociale, fare sport di squadra, andare dal barbiere, andare in aereo e in treno, andare in macchina con altre persone che non siano mia moglie, parlare con persone che non sopporto, stare a lungo con i miei genitori, incontrare per caso persone che conosco, andare dal dentista, andare dal medico in generale, andare al supermercato. Ci sono altri come me. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Non ho mai provato stati di ansia o di panico come quelli di cui parla Massimo. Per un certo periodo però mi è capitato di fare un sogno piuttosto nitido che si ripeteva e che mi faceva svegliare in uno stato confuso e agitato. Era il sogno dell'acqua. Nuoto lentamente a pancia in su sulla superficie del mare. Il cielo è sereno e l'acqua tranquilla. Poi, come niente fosse, a un certo punto, inizio ad affondare. Come se il mio corpo fosse stanco e non riuscisse più a coordinarsi per stare a galla. E quindi comincio ad andare giù. E poi sono lì, sono sott'acqua. E per un po' cerco di trattenere il fiato, poi però il fiato finisce. E allora butto fuori tutta l'aria. E in quel momento capisco che quella è l'ultima aria che ho. Allora guardo su e mi accorgo che la superficie ormai è lontana e che anche se nuotassi più veloce che posso, col poco fiato che ho, non ce la farei mai a tornare su. Penso che forse posso respirare sott'acqua, che in fondo i pesci lo fanno, no? Però intanto il tempo sta passando e o mi muovo a prendere la decisione di provare, oppure non mi restano che pochi secondi di vita. E quindi ci provo. Apro la bocca, faccio entrare un po' d'acqua, ma niente, è servita solo a farmi tossire e a sprecare l'ultimo ossigeno che ancora era rimasto nei polmoni. Ecco, mi accorgo che sto iniziando a perdere conoscenza, che ormai non serve più dimenarsi, ormai conviene stare fermi e lasciarsi andare. Poi apro gli occhi e vedo un pesce che mi guarda, e per la prima volta in vita mia mi ritrovo a invidiare quel pesce, che non ha mai detto niente in vita sua, che non ha mai fatto nulla per cambiare il mondo. Lui non ha fatto nient'altro che mangiare pesci più piccoli di lui. Sta vivendo la sua vita senza che nessuno se ne accorga e probabilmente morirà senza che nessuno pianga la sua morte. E invece no, io no. Io la mia vita la sto vivendo. E ci saranno un sacco di persone che sentiranno la mia mancanza se dovessi morire. Però lui, il pesce, è in grado di respirare sott'acqua e io invece no. E questa adesso è l'unica cosa che conta. Basta, il mio cervello non ha più nemmeno aria. Anche il suo ossigeno è finito. Allora chiudo gli occhi e penso a quando ero nella pancia di mia mamma. Anche lì ero sott'acqua. Anche lì non c'era aria da respirare. Intanto sento la sabbia accogliermi come il più comodo dei materassi. E allora mi dico che in fondo sono fortunato. Che almeno sto morendo in un posto comodo. E penso che comunque è meglio morire in un posto comodo anziché no. Però io non voglio stare qui. O meglio, non voglio morire. Non mi sembra il momento. Soprattutto poi, non così. Non da solo. Allora provo ad aprire gli occhi e mi rendo conto che ancora un po' di ossigeno che gira dentro di me ce l'ho. E provo a mettermi seduto. Alzo la testa verso l'alto e vedo i raggi del sole che filtrano nell'acqua. E mi accorgo che la superficie non è così lontana, che ero io che la vedevo lontana, che c'era quasi un piacere in quel lasciarmi cadere verso il fondo. Provo a darmi una spinta con le gambe e in un attimo mi trovo di nuovo sospeso in mezzo al blu. Ora sono le braccia che devono fare il loro lavoro. Mi spingo con tutta la forza che ho, con quella che mi rimane. Mi dico che questa è la volta buona per provare a fare qualcosa che sembra impossibile e ce la faccio. Sono fuori. Faccio un respiro che mi fanno male i polmoni da quanta aria butto dentro. E poi urlo. Urlo come fanno i bambini quando escono dalla pancia della mamma. Allora mi dico che forse è per quello che urlano. Perché hanno avuto la peggiore delle paure. La paura di morire. Stars have been dragging you, falling through the sky. We'll have the wind in a thinking bag. We'll have the wind in a thinking bag. Ha su una bella Lacoste viola Massimo nella foto che ci ha mandato e che trovate sempre sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Non so la differenza tra viola e lilla, ma direi che questa è proprio viola. È in mezzo al verde, nel senso che forse è semplicemente nell'angolo di una siepe che confluisce e sembra verdissimo. Il cielo è azzurro sopra di lui, la sua faccia, nonostante il racconto, sembra molto serena. 349-238-6666, oggi parliamo di ansia in qualche modo e lo facciamo grazie al racconto di Massimo, che comunque a modo suo ha rotto un velo. Pronto Massimo? Sì, volevo parlare di una cosa che molta gente ha e si vergogna a mostrarla, mentre è un comune disagio. Innanzitutto, ciao Massimo, come stai? Ma io sto bene. E i malati di ansia, se si può chiamare malati, stanno bene, a parte quando hanno gli attacchi di ansia. Massimo, facciamo un passo indietro allora, nel senso che tu ci hai mandato questa storia che è bellissima per come è raccontata, nel senso che io fino a due terzi della lettura dicevo, vabbè, è una storia d'amore, anzi è una storia d'amore e di tradimenti questa, ce ne arrivano un pochettino del genere e dicevo, boh, vabbè, vediamo che cosa succede alla fine, e poi a due terzi boom, proprio una sorta di bastonata che dici, ah, non ho capito niente, sta parlando proprio d'altro. No, sto parlando invece di una storia d'amore. Beh, certo, no, perdonami, io temevo, diciamo, insomma, temevo in una storia d'amore canonica, invece no, non è con una persona ed è con uno stato emotivo. Che definizione ha in termini, diciamo, clinici l'ansia? È uno stato emotivo, è uno stato psicologico? L'ansia, i psicanalisti non la vogliono chiamare malattia, la vogliono chiamare disturbo del comportamento. Mi sembra un termine clinico che non dica tutto e dica niente. Sì, sono quei modi in cui insomma ogni tanto si rintanano lì i medici per evitare di dire cose che forse sembrano più crude di quanto non siano. Massimo, innanzitutto ti ringrazio per averci mandato questa storia, perché non è così usuale. Poi tu mi hai anche scritto altro dichiarandomi che è vero che soprattutto per la tua generazione è difficile parlare di queste cose. Sì, è molto difficile perché era visto come un segno di debolezza, soprattutto io quando ho avuto i primi sintomi, erano gli anni, a metà degli anni 80, io andai dal dottore e il dottore non mi ascoltò quasi neanche, mi diede delle medicine che mi fecero dormire per una settimana e mi disse che non mi era successo niente, invece mi era cambiata la vita. Tu avevi 20 anni? Io avevo 20 anni, stavo entrando in caserma, avevo praticamente finito il militare, non avevo niente di cui preoccuparmi, ero in una posizione tranquilla, quando all'improvviso mi sono sentito soffocare, sudavo, avevo freddo e poi avevo un impulso fortissimo a vomitare pur non avendo niente nello stomaco, scusate la crudezza della... Ma figurati, siamo qui per questo, insomma, è una forte nausea. Poi come mi è arrivato mi è andato via e quindi ero terrorizzato, ma nello stesso senso non capivo. Certo, lo immagino. E da lì a quanto tempo è passato prima che tu andassi da un medico? È passato 2 o 3 anni, perché poi la frequenza iniziale era solamente 2 o 3 volte all'anno nelle situazioni, diciamo, di stress. Che mi metteva, esatto, che in cui ero più a stress. E invece dopo una decina d'anni era diventata la regolarità della mia vita, e quindi anche nelle situazioni addirittura dove provavo piacere, cioè negli hobby, sì, io avevo ansia. non riuscivo neanche a divertirmi. Senti, non riesci ad andare a mangiare con gli amici. Riesci proprio in poche parole a raccontarci fisicamente che cosa succede, quello che dicevi prima, cioè mancanza di fiato? È una sensazione, a parte che è personale, quindi non è detto che sia così per tutti. Ah, okay. Comunque è una sensazione di stravolgimento della realtà. Io sono dal barbiere, sì. So di essere realmente dal barbiere, quindi non mi può succedere niente, sì. Ma in quel momento il mio corpo mi dice devi andare via, devi scappare, perché stai per cadere in un burrone, stai per morire. Questa sensazione te la fa emergere con una forza tale che se non l'ascolti ti vengono dei colati di vomito, in modo che ti costringe ad andare via. E come ti salvi? Come scappi da questa roba? Scappo giustificandomi in mille modi. No, dicendo... perdonami, non come scappi dal barbiere, quello posso immaginare, non si inventerà una scusa. Cioè, come te ne vai da questo stato terribile? In realtà l'ansia non ammazza, non uccide nessuno, quindi... Ci convivi. Non solo ci convivi, quando arriva l'apice si sgonfia, tende a sgonfiarsi, quando si manifesta proprio con l'attacco di vomito dopo ti passa. Quindi adesso tu di fatto hai semplicemente imparato a conoscerla e a gestirla, per cui quando esatto. tu parli di storia d'amore, infatti la cosa più interessante del tuo racconto secondo me è quando dici che quando non c'è addirittura la cerchi quasi. Assolutamente, perché poi diventa anche un'arma di difesa, cioè quando hai delle situazioni che non vuoi affrontare, come quando si è bambini, che si fa i capricci, praticamente la vado a cercare, ma come? Dico, in questa situazione non mi piace. Com'è che non arriva? Com'è che non arriva? Quindi è lì che mi sono posto la domanda, ma allora sono io che la voglio. E questa la cosa, combatto e la voglio. E questa cosa l'immagino tu l'abbia raccontata insomma a medici, psicologi e loro. Beh, io ho fatto 10 anni di psicanalisi che sono stati un arricchimento personale, un viaggio al centro della terra, cioè al centro del mio mondo. Certo. Stupendi, però sono andato lì per curare il sintomo, ho fatto il viaggio del mondo, ma mi è rimasto il sintomo. E quindi appunto alla fine hai deciso che è una storia d'amore. Massimo, senti, io purtroppo ti devo salutare, però volevo chiudere con l'elenco che tu mi hai mandato, che mi sono impazzito perché mi piacciono in sé le liste e gli elenchi, ma c'è un punto del tuo elenco che secondo me più avere a che fare con l'ansia ha a che fare con la ragionevolezza, cioè non riesco più a parlare con persone che non sopporto. Mi piace tantissimo, che in realtà dovrebbe essere una cosa normale, uno non lo sopporti, non ci parli più. No, per lavoro tu in tante situazioni certo. Ci devi parlare lo stesso certo. E quindi invece adesso non riesco più, ho proprio un sesto senso che mi dice che questa persona negli affari mi sta fregando e non riesco più. Ah, quindi questa è anche positiva. Certo, mi ricordi che lavoro fai? Perché tu racconti di aver creato un'azienda tua a 22 sì, anni. Io sono un imprenditore da tanti anni, ho un'azienda, ho delle responsabilità come tanti. Cosa fa esattamente la tua azienda? La mia azienda vende accessori per maglie da donna, cioè pizzi, passamanerie e bottoni che vanno attorno alle maglie da donna. E dicevi che nonostante il periodaccio gli affari vanno, giusto? Sì, nonostante tutto noi siamo riusciti a cambiare, ad andare all'estero e a migliorare la nostra azienda. Massimo, io ti ringrazio, ti saluto e ti ringrazio soprattutto perché in fondo alla storia tu fai una domanda che è la domanda delle domande e che tende a far venire allo scoperto le persone che non riescono. Ed è, ci sono degli altri come me e immagino che la risposta sia sì e immagino che forse ci sia bisogno di raccontare, non per forza a noi, ma di raccontarla come l'hai fatto tu. Massimo, grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e soprattutto a quelli che ascoltano, se ce l'avete, non vergognatevi, non è una colpa. Ciao Massimo, grazie. Ciao. 349-238-6666 per gli sms. Claudio mi scrive: la mia più grande ansia è quella di rimanere senza una lira e dover tornare a casa da mia madre. La parola chiave ovviamente qui dentro è mia madre. Voglio però chiudere, visto che l'abbiamo citata e visto che mi sembra una bella lista, l'abbiamo già letta, però voglio riproporla. L'elenco di cose che Massimo dice di non riuscire a fare a causa dell'ansia, che sono andare a cena con gli amici e fare vita sociale, fare sport di squadra, quindi immagino da solo tipo una partita di tennis gratis, riesce a farsela. Andare dal barbiere, l'ha citata anche nella telefonata, andare in aereo e in treno, andare in macchina con altre persone che non siano mia moglie, parlare con persone che non sopporto, stare a lungo con i miei genitori, anche qui c'è una chiave di lettura, incontrare per caso persone che non conosco, andare dal dentista, andare dal medico in generale, andare al supermercato. Io torno a ringraziarlo per averci mandato questa storia nella versione nuova, nel nuovo palinsesto. Noi chiudiamo qui dando la linea alla borsa e poi a Oscar Giannino, quindi io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Margherita Ina, Tiziano Bonini e soprattutto Massimo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Siamo Donata, la storia di domani è la mia e parla di una sauna in Engadina. Questa è la mia storia e io sono qui.